Cammino questo fosso, fango e spine. Ho tutto il tempo addosso, nel ricordo che sale. Geniale come sempre, l'orrore, che è solo un genere umano. Soltanto un video, così feriti noi, o era soltanto un video. E guarda come corro verso l'alba che viene, ma è chiuso il cielo adesso, qualche goccia fa male. Geniale fino in fondo è l'orrore, che è proprio un genere umano. Soltanto un video, così felici noi, era soltanto un video. Ci siamo uccisi poi, era soltanto un video. L'interezza, lo sguardo, un progetto diverso. Più ancora ti manca, più ancora da qui non c'è. E aggiungiamo tua madre, se vuoi, anche questa regione. Questi anni tremendi dove chi vince è un coglione. Più ancora ti manca, più ancora da qui non c'è. Ciao a tutti, ciao radioascoltatori, siamo di nuovo in diretta con i nostri meravigliosi ospiti oggi, Mariano De Tassis, Alessandro Melis e Marco Livotto, non so se è rientrato o se è ancora occupato col figlio, Federico Bonelli, Diego Repetto, credo di aver richiamato tutti, bentornati in diretta. Federico, mi sembrava che volessi parlare di colore. Chi, io? Sì. No, a dire il vero ne abbiamo parlato un po' fuori onda e me lo terrei come un discorso di fuori onda. Stavo sfruttando biecamente le conoscenze dei nostri ospiti a riguardo. Mm-hmm. Però visto che mi hai chiamato in causa, rispetto, no, siamo partiti dall'utopia, ma c'è fondamentalmente, mi ricordo all'interno come fil rouge tra tutte le puntate di Quinto Paesaggio, la voglia di trovare dei luoghi che io chiamo situazioni, cioè delle situazioni che comportano un posto, un tempo, un modo di arrivarci, un pubblico, eccetera, che si prestino a più che a creare o applicare un linguaggio, proprio lo richiedano, un linguaggio nuovo che sia più vicino a quello, ecco, che oggi avete chiamato il linguaggio degli zombie, cioè, che a me non piace molto perché lo zombie è un morto vivente, io preferirei un vivo che fa poco danno a un morto vivente che fa molti danni, come immagino. Però ecco, questo portare le persone in situazioni inusuali e lavorarle drammaturgicamente, creando una poesia anche con la tecnologia, cioè restituendo a queste parole fatte di tecnica delle possibilità differenti, reinterpretazioni profondamente umane, è anche una fonte di innovazione. Questa fonte di innovazione dovrebbe da sola, diciamo, giustificare, pesantemente questi artigianati artistici, nuovi. Di tutti i tipi, insomma, non dare possibilità all'artista che vuole formarsi in una situazione strada perché è un artista di seconda mano rispetto a un professore universitario che si forma con un linguaggio magari ancora legato a Croce, mi sembra un po' il problema più che altro. Non lo so, lo butto lì come una provocazione, spero che qualcuno la raccolga senza farmi troppo male, ecco. Chi vuole raccogliere la provocazione di Federico? Silenzio. Silenzio. Vado io. Vai, Vai, Diego. mi butto. No, no, mi butto nel senso che nel raccontarvi quello che sto vivendo in sto momento con Alessandro Zanier degli 8DX. Che tra l'altro vi saluta tutti, e Carlo Grazie. Infante, che anche lui vi saluta tutti, ecco, e di Riavvia Italia. Per esempio, che dove logicamente siete coinvolti anche, sono coinvolti un po' tutti anche, e anche voi, soprattutto di Radio Antidoto. Il concetto è di creare il concerto diffuso, dove non esiste più un luogo, uno spazio determinato, ma come gli intrecci quantistici ci sono più un qualcosa che avviene. Per esempio, mi viene in mente ieri ho avuto una bellissima telefonata di più di un'ora con Massimo Palumbo del MAEC del Molise. E il MAEC è questo museo a cielo aperto di arte contemporanea, ecco. E devo dire che ha sposato volentieri la causa, diciamo, di questo progetto di Riavvia Italia Live Tour, eccetera, proprio perché ha letto le potenzialità di connettere realtà che di norma viaggiano da soli, ma che è bello che vengano messe correlate insieme, creando un unico grande spazio, ecco, fondamentalmente. Non lo so, io nelle parole di Fred ho letto questo, ecco, il concetto di trasformare questo aspetto di visione del classico spazio, ma trasformarlo in uno spazio più ampio, che è appunto quello tra virgolette quantistico, mi viene a dire, tramite l'uso della tecnologia online, ma anche dell'uso fisico, per dire del concerto fisico, ecco. Del Scusate. corpo, dello spazio, del dove andare, del perché. Esatto. È un po' anche molto praticamente, io lo penso in modo molto pragmatico, cioè portare a teatro con la T maiuscola, però un teatro fatto in posti diversi, ma con tutta la sapienza del teatro, portare a teatro persone che non ci andrebbero mai, portare dell'arte contemporanea, quindi anche che in cui diciamo l'importanza del gesto, del concetto, del corpo è fondamentale, portarla in posti che siano accessibili a una comunità, per esempio, a una comunità che ci vive, che non andrebbe mai in una galleria. E quindi anche per noi, per crearci del nuovo pubblico che ci possa sostenere, perché vuoi politicamente, per avere un impatto politico, vuoi socialmente, per avere un senso nella società, l'arte deve assolutamente affrancarsi dal capitalismo inteso come lo star system che premia due o tre cose mediocri per tenere sotto tutto il resto, l'infinito mondo della creatività umana. Poi. Non so, Fantastico, no, no, condivido. l'ho detta un po' brutale, No, è scusate. brutale, ma è reale, va benissimo. Che poi è quello che già fai, che è stato fatto con Trasformatorio, no? Sì, ma noi non ci conosce nessuno, è comunque un'attività molto marginale che abbiamo intrapreso per noi, cioè per capire noi come adesso Trasformatorio è un gruppo di molti artisti, però è stato proprio un atto di vivere sulla nostra pelle degli insegnamenti che poi venivano diciamo, dal modernismo, se vuoi anche dal fluxus, no? Da delle influenze che ci piacevano, vedevamo in alcuni artisti che amiamo e che cercavamo di capire come cavolo facessero. Cioè, Trasformatorio è un esperimento che io spero possa contaminare tante altre realtà che sono molto più meritorie e meritevoli di avere spazio. C'ha l'unico vantaggio che è nostro, nel senso che siccome ce lo siamo fatti da noi, ci è vicino. È un po' come la narrativa, il lessico familiare è prezioso per quella famiglia. Sì. La Certo. vedo un po' così, ecco. Molto bene. E chi vuole esprimere ancora qualcosa sul tema? Sì? Prendendo appunto spunto da questa situazione di nuovi spazi, nuove visioni teatrali, artistiche, in questo periodo di lockdown, di Covid, di come la chiamavo io, surreale realtà sospesa, l'idea che mi è venuta è proprio quella di portare la gente dopo questo periodo di sospensione, appunto, all'attività. Allora, praticamente, ultimamente si sono sempre sentiti di più nei vari social, nelle varie situazioni di casa, il computer, i podcast, no? Che sono cose molto interessanti, che sono partite, alcune piacevoli, altre meno, però comunque hanno creato una nuova fruizione dell'arte o dell'ascolto che può essere di un racconto, di un episodio, di un libro, di un pezzo. Quindi, diciamo, i podcast hanno cominciato a prendere piede. L'idea che mi è venuta, appunto, è questa. Il titolo che ho dato a questa idea artistica è Suona attivo, che praticamente. Fa praticamente cosa consiste? Consiste che la gente deve attivarsi e quindi per sentire delle emozioni condensate in piccole pillole che possono essere musicali, sonore, di suoni o di qualche parola, devono muoversi. E allora l'idea è appunto, da quando dicevi prima, familiarità, famiglia e Dolomiti, allora abbiamo questi posti magnifici qua in Trentino, e l'idea appunto è stata quella di creare dei piccoli percorsi emozionali dove la gente comunque deve fare 5-6 ore di cammino, quindi deve muoversi, e in queste 5-6 ore di cammino ci sono delle colonnine, semplici colonnine con un QR code che se tu non sei in quel momento, in quel preciso momento, in quel preciso posto, che è anche faticoso arrivarci, quindi è anche ambizioso da parte mia portare la gente che deve fare fatica per arrivare a qualcosa di piacevole, che c'è sempre questa situazione di passaggio, no? Che è importante, la sofferenza intesa come rito per arrivare a qualcosa, e quindi la gente che deve muoversi arriva a dei posti che dopo un sopralluogo, quindi anche la fortuna di fare questi sopralluoghi in posti fantastici, non so, davanti ai il Brenta, ai l'Adamello, cioè i posti fuori da ogni situazione di realtà virtuale. In effetti mi piaceva chiamare questa nuova visione, siccome ognuno è libero di ascoltare col proprio smartphone, con il proprio telefono, le sue cuffiette, di ascoltare in un posto dove non esiste la realtà aumentata, ma la realtà aumentata poetica e non solo tecnologica visuale. Perché se pensate che siamo sempre davanti a un monitor, a un video, a una luce che comunque proietta, ci comunica, ci fa vedere delle cose, finalmente noi possiamo non avere un monitor davanti o un telefono o un prodotto che ci permette di vedere qualcosa di diverso, ma finalmente possiamo diventare noi stessi, il pubblico parlo, regista di questo momento e può vedere qualcosa. Quindi ecco, mi piaceva appunto questo quando si parlava di nuovi spazi, nuova forma di teatro. Per conto mio si andrà sempre di più a cercare le emozioni, le fusioni dei codici dove la persona può arrivare e percepire già con solo la natura, ma poi con l'aiuto appunto di tecnologia, di arte che sente nelle sue orecchie, quindi aumentiamo il senso dell'udito e soprattutto della vista, possiamo creare delle visioni veramente infinite. Per quello che dicevo, sono passato da un mondo chiuso, luminoso, virtuale, artificiale, a un mondo di giorno dove hai davanti già un paesaggio costruito. Quindi ecco, mi piaceva dare questa piccola situazione di cosa mi ha portato nella chiusura verso anche una forma, tra virgolette, utopistica di una nuova forma teatrale. Io ti ringrazio perché è proprio l'esempio che mi mancava, l'hai dato tu, di quella che io chiamo una situazione drammaturgica che ha tutti gli interessi, no? È interessante dal punto di vista che qualcuno potrebbe voler pagare il biglietto in qualche senso, e allo stesso tempo è fuori da, cioè aspetta il suo Shakespeare, no? Sta lì pronta a aspettare il suo Shakespeare che scriva qualcosa di bellissimo fatto per QR code disseminati nello spazio. Ecco. Bravissimo, sì sì. Bellissime esperienze da vivere. Appena possibile tornerò sulle Dolomiti e mi piacerebbe. Sì, adesso è un po' che mi mancano, devo dire. Le ho vissute in tutte le stagioni e adoro camminare, perdermi per i sentieri. Allora, c'è Francesco, il nostro ascoltatore, che vorrebbe fare una domanda ai nostri ospiti e dice: io sono figlio di un trentino e sono cresciuto in Molise. Abbiamo un ospite dal Trentino e si è parlato di un museo molisano che, se ho capito bene, si trova a Cascalenda, che è una località veramente molto vivace sul fronte culturale nelle zone dove sono cresciuto, dice Francesco. E dal Trentino al Molise siamo ai confini dell'impero, di cui si è parlato all'inizio. Qual è il processo ideale per conquistare le nostre terre di confine? Dove sviluppare la nostra utopia post-pandemica? Chi vuole rispondere? Mariano da Trento o Marco Olivotto da Rovereto o magari poi sì, anche Alessandro, prego. Mariano credo sia il più adatto. Io sono un okay. Non ho una risposta così. No, mi hai rubato la parola. Vedi che la velocità batte, no? Ecco. Cavolici. Ripeto la domanda. Sì, dai. Quindi, qual è il processo ideale per conquistare le nostre terre di confine? Dove sviluppare la nostra utopia post-pandemica? Ma diciamo che quello che stavo dicendo prima, appunto, di conquistarsi degli spazi che tantissime volte, soprattutto il Molise, terra quasi dimenticata da tantissimi, che ha degli spazi e dei musei naturali di una bellezza, di una poesia unici, ecco, riuscire a ricreare appunto una situazione anche come in Trentino, ma partendo dall'Alto Adige o altre situazioni, diciamo, del nord Europa, dove la natura diventa forma d'arte, dove le persone devono andare a a conquistare questi confini. Quindi, per conto mio, la bellezza di questa possibilità di andare a conquistare dei luoghi dove di solito non mai, perché i grandi eventi o le grandi situazioni artistiche non sono in questi luoghi, ma portare le persone invece in questi luoghi a vivere la bellezza drammaturgica, naturale del luogo. Quindi, per conto mio, la riconquista degli spazi non pensati per l'arte, ma perché sono gli spazi naturali di una bellezza unica, per conto mio questo potrebbe essere una vera conquista e fusione dei luoghi. Io, sì, è vero. Questo, io potrei aggiungere una cosa, due anzi. La prima è che è importante perseverare. Un festival come i Suoni delle Dolomiti, che noi conosciamo benissimo, è per dire, io mi ricordo anche molto bene quando iniziò, eravamo in tre agli spettacoli, e dopo che è diventata una cosa, cioè ora che passi l'idea, bisogna investire, e questa è ovviamente una decisione che viene presa a livello politico, chiaramente, bisogna finanziare a monte per un periodo lungo, non si può farlo per 2 anni e poi dire non funziona, quindi bisogna calcolare anche dei tempi. E secondo, che è una delle critiche, perché bisogna dirlo che viene, nel senso che è bellissimo andare a rioccupare gli spazi, bisogna farlo però rispettandoli in qualche modo. Questo è fondamentale, perché sanno tutti che ci sono state polemiche incredibili su concerti che sono stati fatti all'Alpe di Siusi piuttosto che in altri posti, che alla fine ti portano lì, portavano pre-Covid una massa di persone. Beh, voglio dire, il modello, forse la prima volta che accade in Italia, è antico, è il famoso concerto di Pink Floyd a Venezia. Bellissima idea, parliamone però, perché era una città molto fragile. Senza per questo dire no, non si deve fare, bisogna ragionare, e anche lì credo che servano competenze diverse per questo. Ma in effetti quello che stavo dicendo io era una forma d'arte, certo, poche persone, dove vai a vivere lo spazio. In effetti Suoni delle Dolomiti ha avuto una sua, per conto mio, finale, una sua chiusura, appunto quando è diventato un contenitore di massificazione strumentale musicale del pop, no? Dove prima invece avevi qualcosa che era un'anima, dove si dialogava con la natura, con pochi elementi e poche persone, quindi un rito, è diventato invece una situazione da balera, da mercato, dove portavi, in effetti tutti i luoghi non erano difficili da raggiungere, quindi si è visto subito il passaggio, no? Se prima una persona ci impiegava 6 ore partendo alle 4 di mattina, quindi il rito del risveglio, di andare, di vedere la luce che cambia e di trovarti in un posto per condividere quella magia, siamo arrivati invece a posti dove la gente arriva con le macchine e arrivano 20.000 persone. Quindi questo qua proprio è una cosa da non fare, cioè una cosa che sta distruggendo un'immagine di qualcosa all'aperto, di qualcosa di diverso. Ma è verissimo, bisogna dire anche a onor del vero che non tutti gli eventi sono come descrivi tu, cioè esistono queste due anime, ma è fuori dubbio che ci sia stata una parte, cioè voglio dire, esistono ancora gli eventi impegnativi, chiamiamoli così, invece altri sono più alla portata di tutti e succede quello che succede, questo è evidente. Quindi possiamo dire che l'arte può essere condivisa solo tra piccole comunità, cioè piccoli gruppi di persone, perché quando poi il numero di persone diventa troppo elevato, si perde poi lo spirito artistico dell'evento. Lo spirito del luogo, che il luogo è nato per essere visitato, per essere vissuto da persone, non da masse, cioè la montagna o la collina o situazioni dove comunque devi raggiungere dei luoghi, devi comunque faticare per arrivare, non può, cioè, io quando vedo, quando tu parlavi che bello, voglio tornare sulle Dolomiti, ma pre-Covid le Dolomiti erano diventate Rimini, cioè erano situazioni dove gente con tacchi a spillo e situazioni di non rispetto del luogo contaminavano con delle energie negative il luogo stesso, quindi è per quello che dico, a attenzione, i luoghi sono bellissimi, ma vanno rispettati. C'è un codice, quando si parlava di codice. Sì, sono d'accordo, è un po' quello che, scusa, rapidissimo, poi ti do la parola, Fred, è un po' quello che, la linea di demarcazione è quella tra arte e turismo, poi a lato pratico, che, insomma, il turismo con tutti i suoi problemi e i danni che fa ai luoghi e l'arte invece che è, diciamo, il tesoro che ci arricchisce e che ci fa stare bene. Prego Federico, scusate. No, scusate voi, sono un caffone. No, preso dalla foga, volevo soltanto dire la mia butade da filosofo, che però secondo me quello che stiamo dicendo è proprio vedere la questione in termini di situazione, cioè non binari ma ternari. Quindi cominciamo a disegnare la situazione e fare la nostra arte per un certo tipo di situazione. Ovviamente le due situazioni da voi discusse sono completamente differenti, no? Anche se il luogo fisico e magari anche temporale, lo spazio-tempo è lo stesso. Quindi se cerchiamo di disegnare situazioni, possiamo evitare questo dualismo così fastidioso tra la fruizione ottimale e la fruizione di massa. E in quel senso si possono tranquillamente disegnare sistemi di fruizione di massa, magari dilatando il tempo della nostra opera drammaturgica. Per esempio, non ho difficoltà a immaginare che il sentiero aumentato possa essere visitato da milioni di persone in centinaia di anni. No, questo è pienamente ragione. Sì. Mentre una cosa che mi interessava invece dire, che è vitale, è proprio la questione del sostentamento economico, cioè di come disegnare operazioni fondamentali di questo tipo senza basarsi sul fondamento economico del consumo mordi e fuggi, che è quello, diciamo, che la nostra politica sta in fondo lo abbiamo interiorizzato, perché noi che lavoriamo con il settore creativo o col settore artistico, più o meno vergognandoci di usare la parola, abbiamo interiorizzato il fatto che abbia a che vedere con il turismo o con il pubblico pagante, la quantità di birra che viene venduta. Questo è evidente, per esempio, in Olanda, dove vivo, in cui l'Horeca, che è il venditore di birra, detta con molta più peso del direttore artistico l'esigenza dell'uso dello spazio, no? Lo delimita fisicamente, cioè devo vendere tot birre l'ora, per cui non potete usare lo spazio in questo modo che avete creato, punto, vince lui. Se dobbiamo anche cominciare a recuperare la questione di chi paga, cioè di chi decide l'intervento pubblico. E in questo senso, secondo me, c'è moltissimo da immaginare, altro che zombie. Non perché la gente debba arricchirsi o debba vivere necessariamente, no? Ma perché dobbiamo ricominciare a avere a che fare con la funzione reale dell'arte. Reale, mi permetto di dire reale, non è il termine giusto, che è quella di essere un ausilio fondamentale alla paideia, cioè all'educazione, alla formazione del cittadino. E lì ritorniamo sulla questione dell'utopia o della narrazione, cioè cos'è che vogliamo sia l'essere umano tra 3 anni, quando ci arriveranno altri disastri ambientali, insomma. E approfitto anche della mia capacità per creare il silenzio, scusatemi, per scusarmi e chiudere qua, insomma. Grazie. La riflessione. Grazie Federico, grazie mille. Bene, prego. C'è qualche... Diego, mi verrebbe da aggiungere al discorso di Fred anche che l'arte crea proprio il benessere sociale, proprio anche il benessere mentale, ecco, quindi di sentimento. E quindi quella è una funzione fondamentale che secondo me andrebbe ancora più valorizzata e trasformata in vera e propria economia anche. però... Esatto, è un'economia del valore, non un'economia del denaro, già sarebbe qualche cosa, insomma. Sì, sì. Bene. Alessandro? Eccomi. No, sì. È un po' che non ti sentiamo adesso, volevo... Ci sono. No, diciamo, sono riflessioni, diciamo... Io ritorno, ribadisco il concetto estendendolo anche a questo aspetto, cioè il fatto è che effettivamente, come stiamo dicendo, esistono due forze, una più inerziale, una meno, che appunto vedono questa situazione binaria tra l'arte, diciamo, gestita o, come dire, utilizzata come molde della cultura, e l'arte invece più, come dire, più settoriale, più ristretta. Ora, secondo me è sempre il problema del paradigma, cioè mi spiego, cioè io non è che di per sé la massa sia il problema in un determinato ambiente, il problema è che la massa crea una pressione, chiamiamolo dal mio punto di vista, una pressione ambientale, una pressione sociale. Ora, la domanda che mi pongo io, e qui torno agli zombie che non piacciono a Federico, ma forse perché non sono stato chiaro, gli zombie siamo noi, cioè quindi non è che noi dobbiamo dire, cioè dal mio punto di vista non è che gli zombie non ci piacciono, gli zombie li dobbiamo superare perché siamo già degli zombie, questo è il, diciamo, è il tema centrale. Lo zombismo sta proprio in questa interpretazione, cioè che in realtà non siamo capaci di andare oltre questa visione binaria, come tra l'altro diceva anche Federico, su cui io sono assolutamente d'accordo, ed è un po' quello che diceva Diego, questo si supera con il pensiero associativo, cioè noi abbiamo dato per scontato che certe condizioni ne generano altre, e questi paradigmi vengono accoppiati normalmente. La visione della massa adesso, oggi, è interpretata come pressione ambientale, e questo è vero, ma in passato siamo stati in grado di modificare questa definizione. Cioè io mi domando, esistono possibilità di estendere orizzontalmente la fruizione di questi eventi culturali senza intervenire, senza distruggere la biosfera, gli strati, come dire, ecosistemici delle Dolomiti? Tra l'altro, su questo stavo zitto più che altro per un altro motivo, perché tocchiamo un aspetto che non posso comunicare, perché le Dolomiti sono al centro, quindi è una cosa, al centro di una parte di un'esposizione di cui non posso dire nulla. Quindi era questa la mia... qui stesso, oggi secondo me abbiamo fatto un ragionamento che a me entusiasma, ed è questo. In realtà in quella che io chiamavo blended reality ci sono queste possibilità. Cioè oggi fuori da certi schemi, da certe rigidità, chiamiamole anche ministeriali, governative, noi sappiamo già, potrei fare degli esempi, sappiamo già che grazie alle arti creative noi possiamo avere condizioni, fenomeni culturali estesissimi senza avere alcuna pressione, come posso dire, ecologica sui sistemi. Semplicemente chi prende le decisioni non conosce questi meccanismi e non li pratica, perché questi sono meccanismi prevalentemente bottom up, e sono d'accordo con Federico quando dice che questi meccanismi non esistono perché ancora chi ha il potere decisionale non vede, e su questo magari una leggera differenza su quello che diceva Federico, non vede il vantaggio economico. In realtà la società ha una parte inerziale che è totalmente statica rispetto a certe prospettive, una parte che si sta muovendo velocemente, la parte iniziale non è in grado di prendere in mano queste disponibilità. Faccio un esempio che che riguarda l'architettura, ma che può essere compreso anche nell'arte. Nell'architettura spesso si dice un edificio ecologico costa più di un edificio tradizionale, per questo che il mercato non lo digerisce, non lo accoglie, perché il capitalismo ci spinge verso questa anti-ecologia. Il capitalismo sì, il neocapitalismo, il neoliberismo, la perversione del sistema economico come si è costituita oggi. Noi sappiamo benissimo che un edificio ecologico ha un costo notevolmente inferiore, semplicemente perché l'economia di quell'edificio va calcolata in modo completamente diverso. Noi lo chiamiamo life cycle assessment, che è diverso. Lo stesso vale, è trasferibile sulle altre questioni. Su questo poi mi piacerebbe andare oltre, magari mi sto eccitando, scusatemi. No, su questo ci sarebbe una scena, cioè... Mi viene in mente, Federico, Fred, mi viene in mente il tuo scritto per una mafia ecosostenibile. No, per carità. Per carità, la trasmissione è già stata lunga, però no, su questo dobbiamo assolutamente organizzare una scena, qualcosa. Sì. Cioè, uno di noi deve essere capace di cucinare per tutti, o tutti cuciniamo assieme. Federico, per quello che dicevo prima, io vi faccio un bellissimo ologramma di Apollo. Ciascuno prepara una cosa. Allora sì, e questo dovrebbe essere lo spirito. Ognuno prepara una cosa e portiamo anche gli amici, in modo da mettere pure un po' d'amore, oltre che di cervello. Facciamo una bella scena, magari la mandiamo anche in radio, ecco. Almeno fino a un certo livello alcolico. Dopo il livello alcolico lasciamo la musica. Molto bene. Bene, a questo punto io direi che possiamo anche pensare di mandare l'ultima traccia, di salutarci e insomma ci diamo appuntamento ad un incontro fisico con cibo e bevuta e riflessioni, sempre su questo tema del cambio di paradigma, direi, di ripartire proprio dalla riflessione sulla necessità del cambio di paradigma, se sarete d'accordo. Quindi vorrei ringraziare Mariano De Tassis, Alessandro Melis, Marco Livotto, Fred, Federico Bonelli, ringrazio Francesco Rigoni per la regia, grazie Francesco, i nostri ascoltatori di Radio Antidoto che sono stati molto attivi sulla chat e non sempre ho potuto seguire, ma adesso mi andrò a rileggere tutto quanto. E quindi per quel che riguarda l'ultima traccia, Disturbano dei Delta V è tratto da quel gioiello di album che è Eimat, purtroppo poco conosciuto, e anche qui si sommano pensieri personali e altri più ampi, ma l'analisi è lucida e in qualche modo indica una direzione che forse punta a un luogo che non c'è, utopia appunto, e penso che questo sia il manifesto migliore ora anche per il suo insistere sul valore e disvalore delle regole. Mandiamo, Francesco, se ci mandi l'ultima traccia, Disturbano, e saluto e ringrazio tutti quanti e vi do appuntamento al prossimo incontro per Concerti di Idee qui su Radio Antidoto. Grazie mille a tutti. Ciao! Ciao, grazie, saluti. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. A cena, a qualcuno Federico l'ha detto, una cena, io voglio la... sì. Assolutamente dobbiamo pensare. Non mi tirare dietro sulla cena. Sarà chiaro tutto ciò che è stato. Non vi lamentate, non trovate scuse. Non pensiate siano solo idee confuse. Splendidi e scattanti, barbari e sprezzanti, senza inconvenienti son venuti avanti. Perché non sono armata e non ho più l'età per fare ciò che vorrei con serenità. Salgo in fretta senza domandare. son girata, è stata mia la colpa. Io certe facce non le voglio più vedere, io certa gente non la potrò mai capire. Mi puoi capire? Penso ai tuoi figli, li guardo e mi domando cosa diranno, in cosa crederanno. Le regole disturbano, le regole ti salvano. Corro di giorno cercando di adeguarmi, suono la sera senza addormentarmi. La tela accesa in camera, la notte non mi salverà. Si nasce, si vive, ci siamo così. Si continua, si crepa, ci si sente così. Ipnotizzata da trendsetter, tardo adolescenti e simili. La socializzazione ha un limite e un lato scuro pronunciato. Ma ci convivo bene, ci convivo bene. Le regole li turbano, le regole li turbano. E bastarda, febbre digitale, tasti da percuotere, foto da postare. Epidemia domestica, la mente non dimentica. Penso ai tuoi figli, li guardo e mi domando cosa diranno, in cosa crederanno. Niente di nuovo sul fronte occidentale, fine in discoteca, niente da dichiarare.